Vergine, io devo, ma costei mi trattiene con questo suo semplicetto parlar. Ma pur alle fine l'ingiovine donzella, che amor non anco intende, questa semplicità